Bentornati a Cortocircuito su Radio ZAM. Sono le 19.08, questo vuol dire che sono in ritardo. Almeno io sono qui, però, visto che un paio di paccari non mi hanno confermato la loro presenza qua in studio. Sto parlando ovviamente di Sbume e di Roby One che Roby, che però avremo modo magari di sentire più tardi. Avremo modo di sentirli di persona, eppure abbiamo modo di sentirle subito adesso con i loro DJ set. Questo è Sbume con una sua bellissima interpretazione della breakbeat moderna. Che dire di Sbume? Beh, direi che un trimone. We'll be right back. We'll be right back. Spume. Spume. Spume. Sei connesso?

tutti pregati di refresciare la pagina. Ciao zio, refresciati. Siete su Radio ZM. Questo è Cortocircuito. We'll be right back.

tutti. Ricordiamo che Cortocircuito è offerto e sponsorizzato da Vagisil. Per la tua festa usa anche tu Vagisil. Thank you. Technologic. Zoom it, it's not. Zip and zip and light. guaglione qua, sbume, sarà pure un rimone, però devo dire che bravo. Jam on it. down in and give me no smack like a boogie. Came in with a sack of Big Macs, we're throwing down with the rack of bulls. That's on time, in your mind, see? You gotta boogie to your best ability. You gotta funk it up until the night you're down. And when you're bumping up, make sure you pass it around. Come on, let's go to work. We got what'll make your body jerk. We can throw your hands up in the air, shake your booty and scream, oh yeah. Cause we are the Jam O' Crew, and jamming on niggas, I will do the do. We'll funk it up until you boogie it down. So come on, people, check out the sound. Rocking viciously, you see, cause of when I was a little baby boy, my mama gave me a brand new toy. Two turntables with a mic, and I learned to rock like a Dolomite. Time went by on this God creation, I knew someday I would rock the nation. So I made up my mind just what to do, and I joined with the Jam On production crew. So go crazy, don't let your body be lazy. I said don't stop the body rock till your eyesight starts to get hazy. Clean out your ears and you open your eye. If you wanna hear the music, just come alive. If you don't know how, get ready to learn. Cause Cosmo's taking his turn to burn. Take a seat, and no in the seat, then you add M-O and a freaking D, add a funky beat, and then what you see? It's Cosmo D, yeah baby, that's me. I've got the beat, but that's oh so sweet. Without me rocking, it's incomplete. So rock this yo, rock that yo, rock on and don't you dare stop. You rock this, rock that, and that's a fact. For the Jam On Crew, we'll rock your body right back. Rock the steam up. To the beat, yo, get down. Let me rock it to the rhythm of the funky sound. From hill to hill, from Z to Z, and when Jam On's rocking, everybody screams. Jam On it, Jam On it, on and on it. And if you're feeling like you wanna dance all night, then go on ahead and flow it. Cause jamming on is what we do best. It's what separates us from the rest. And if you don't think our crew's down for real, let me tell you what happened to the man of steel. Hey, Superman. Just use my super breath. I can fly three times around the world without missing a beat. I socialize with X-ray eyes and ladies, this is sweet. You've learned the deal. Let me tell you why I'm so for real. I'm Cosmo D from outer space. I can do rock the human race. I do it right because I can't do it wrong. That's why the whole world is singing this song. Jam on it. I jam on it. I say jam on it. And stage is the night and night turns the day. Whatever time it is, I want to hear you say. Jam on it. I jam on it. Jam on it. I said Jam On is the funky beat that takes control, with the sure shot boogie that'll rock your soul. Jam on it. Jam on it. I said jam, jam on it. Get out of your seat and jam to the beat, and don't you dare stop your early morning. Jam on it. Meraviglioso sto pezzo dei Nucleus. Bentornati a Cortocircuito. Ora per voi abbiamo una simpatica sorpresa, che più che una sorpresa non è. Fondamentalmente stiamo per entrare in contatto con uno dei più grandi conoscitori di macchinette dell'era moderna. Vediamo se il telefono squilla. Il telefono squilla. Chi sarà mai? Pronto? Ma chi è? Chi sarà mai che risponde al telefono con i rutti? Sarà soltanto Roby One che Roby, perché Sbume risponde al telefono con le scorregge generali. Quello risponde con i peti direttamente. Esatto, precisamente. Ma senti, ma... Oh, porco due. Adesso smetto, basta. Tu sei collegata anche alla radio in questo momento, ti stai sentendo in radio? No, io ci ho provato, ma ogni 15 secondi cade. Non... Purtroppo oggi abbiamo dei curiosi problemi a internet. Trasmettiamo in intermittenza. Per fortuna c'è il podcast che verrà caricato su Archive. E se non avete sentito perché vi è appena saltata la radio, vi siete connegati, c'è il podcast che verrà caricato su Archive. E questo è Roby One che Roby con i suoi simpatici rutti. Roby One che Roby voleva imparare a suonare tante cose, e tra tutti gli strumenti e tutte le macchinette ha deciso di suonare l'esofago usandolo come un clarinetto. Sezione fiati dell'orchestra. Mi metto nella buca a me, perché fuori una puzza, non suono. Che buca, scusa? La buca, quella del gobbo. La buca del gobbo. Sì. Mi metto nella buca a me, perché ecco, è arrivata lo streaming. Aspetta, ti faccio sentire esattamente quanto dura, eh? Dai. Allora, adesso... La buca del gobbo. Adesso sì, abbiamo lievemente in delay. È arrivata lo streaming. Ecco, saltato. Wow, 14 secondi. Fantastico, penso che chi l'ha ascoltata a casa abbia sentito un enorme loop e probabilmente se si chiama col telefono di un amico riesce a sentire tutta la cosa direttamente con una serie di delay molto interessanti che fottono il cervello più o meno come una puntata di Dark. Così che si fanno... Senti, sperimentazioni sonore. Esatto, così. Al giorno d'oggi prendi il smartphone, lo attacchi da un altro smartphone. Che fai così, eh. Esatto, anche a noi piace. Del resto anche noi abbiamo cominciato con un microfonino e un sampler dicendo ehi, vuoi pipare durante i live. mi ricordo le scene bellissime. Mitico Korg microsampler, esatto. C'è l'interfaccia della mia lavatrice, uguale, cazzo, fantastico. Fantastico, il microfonino a molla che ti tiravi in giro per essere più pratico. Era meraviglioso, era meraviglioso. Non so neanche dove cazzo l'hai svoltato e come, ma è stata una mossa fantastica. Quella l'avevo svoltata da Lucky Music, pensa te. Allora, era appena uscita a 400 euro, là ce l'aveva a 300, no? Mm-hmm. Vado, la prendo, no? E gli faccio, ma è scontata, no? Mi fa, no, ma vabbè, ma che vuoi che sia una pianolina? Ancora non avevano segnato il prezzo, non lo sapevano, no? Infatti dopo tipo 2 giorni sono tornato, era lì fuori a 400. È l'unica volta che sei riuscito a fregare Lucky Music invece del contrario, di farti fregare, sì, sì, da Lucky Music. Sì, sì, decisamente, perché parliamo, cioè Lucky Music è perché Lucky perché vuol sei dire fortunato se non ci devi tornare una seconda volta cercando bravissimo di avere indietro i soldi. Bravissimo. Ho capito un sacco di volte, io ormai ci compro soltanto i connettori. Un saluto a tutti i ragazzi di Lucky Music che ormai mi conoscono e mi dicono ah, quello è quello che guarda e non compra mai niente, poi va al banco, compra 2 connettori e poi tra parentesi li cambio anche perché i vostri fanno schifo, su Toma li trovo migliori. Ciao. ciao cari, ciao al ciccione. Mitici, grande. Ciao al ciccione di Lucky Music che sempre mi guarda in cagnesco perché ha la faccia da cane. Comunque, a parte questo, voglio strapparti la promessa di averti qua in studio la prossima puntata, anche perché io in questo momento sto avendo un esplodere della mia espressività, ma in generale sono totalmente incapace. Io mi metto alla macchinetta, faccio piripiri, ogni tanto faccio una storia su Instagram muovendo il cellulare avanti e indietro, è l'unica cosa che sono buono a fare in radio. Per favore, vieni tu a fare lo speaker. Addirittura. Aspetta, l'avevo detto, vedi, attacchi al cellulare il cellulare, fai le cose, vedi che non ho detto. Bello, allora la prossima volta fai tu lo speaker, io arrivo, attacco il cellulare, ti telefono e tu fai la puntata, io sto di là a fumarmi le bombe. Devi rispondere con i miei rutti, sennò non vale. Ah beh, porco Dio, è vero, cioè, vabbè, io compro una bottiglia di gasosa, vediamo cosa riesco a combinare. Una bottiglia di gasolio di comprare. Sì, perché io come si chiama, ecco, esatto. Posso arrangiarmi comunque, vediamo se riesco a combinare qualcosa. Oh, eccomi qua con i rutti. Tu probabilmente non lo stai sentendo, Robin, ma io sto ruttando in questo momento. O più o meno sto parlando con questa voce abbastanza fastidiosa. Tu non hai idea di come mi diverto io, perché tu non te ne accorgi, ma fai la voce scema. È vero, è vero, è una cosa. Quindi scusata. Io non sento la tua attraverso il pedale, però ti sento fare la vocina da mongoloide. Peggio ancora. È vero, è una cosa che ho notato un sacco di volte. Sì, è inevitabile fare i mongoloidi quando usi un vocoder o esatto, qualche cosa. Cioè. Esatto, precisamente. Sarebbe da fare tipo, sai i video quelli che gli tolgono la musica, no? Lasciano solo il cantato. Ho capito. Cioè, non il cantato, però quello vero, quello dei video, proprio del video mentre lo stanno facendo, no? Sì, esatto. Lasciano i rumori dei la passi, voce la... registrata durante la registrazione. Sì, meraviglioso. Sì, meraviglioso. Tipo che fa... Esatto, comunque ho notato questa cosa, per quanto il processore, il pedale, quello che usi per distorcere la voce, qualsiasi cosa è potente, tu comunque ci prova, fai la voce ancora più bassa apposta. Cioè proprio sì. È una cosa automatica, il tuo cervello proprio si resetta. Poi io addirittura ho le cuffie in testa, quindi non sento la mia voce, sento soltanto il processato. Comunque è divertente, devo dire che ce l'avevo là un pochino a prendere la polvere. Ho detto, potrei portarli in radio. Poi una volta ho detto, cazzo, mi sono dimenticato di portarli in radio. Beh, potrei portarli in radio. Ed è andato così un paio di volte per un paio di mesi, fino a che oggi l'ho portato in radio. Quindi oggi è la prima, grande. Oggi è la prima del boss, divertente. Spero che chi ci ascolta lo trovi altrettanto divertente. E spero che sopporti cortocircuito e la mia voce fastidiosa, i nostri mix di musica di dubbio gusto per ancora tanto tanto tempo. Senti Roby, io ti saluterei dicendo che ti sto per mandare il tuo mix, il tuo speciale di Halloween, credo dell'anno scorso. Minchia, fa paura quello. 15 minuti di furia proprio. Ma io ho notato sta cosa, no? Cioè, hai notato che ci invitano a suonare solo ad Halloween? È vero, cazzo. Forse cioè... perché siamo brutti, pensano che siamo mascherati. Siamo tipo siamo considerati gli Slipknot della musica elettronica, vedi? Quindi è perché siamo dei mostri, che... minchia, hai rovinato tutto. Esatto, sboom e dicono, ma vedi che è truccato, cioè non può essere così sfatto proprio, cioè deve essere... Deve avere un problema. Un saluto a Sbume, che ci vuole bene, ci ascolta, anche se lavora un sacco. Ciao Sbume, sino Trimone. Uè Trimo. Uè Trimo. Tramau. Wow. Bella lì a tutti gli ascoltatori. Un saluto enorme a Roby Wanker Roby, che sarà qua con me la prossima settimana a fare bordello. Ecco questo. Che loudness, zio. Cioè, io ho le strisce del volume. Sei andato in rosso. Praticamente hai avuto l'unico picco rosso della giornata. Tu sei capace di sfondare ogni limiter. Ecco, non hai limiter. Oltre ogni limiter, senza limiter. Sempre. Beh, esatto, senza limiter. Non limiteratevi, ragazzi, non limitatemi mai. Questo è il piccolo DJ set, il piccolo set di Roby Wanker Roby. Bella lì, bella Roby, ci vediamo la prossima settimana. E voi state su cortocircuito. Bella lì a tutti. Bella. take you on a trip, a journey full of sound. Underground, baby. Ricordiamo a tutti che siamo su Radio ZM. Questo è Cortocircuito. Per mandarvi di traverso la cena. ricordiamo che cortocircuito... è un programma offerto da Vagisil Crema. Consumare Vagisil regolarmente. Vagisil è bello e bravo. Vagisil responsabilmente. Ed eccovi tornati, questo è cortocircuito di nuovo in onda, tutto dal vivo, anche le cazzate, anche le cappelle enormi che facciamo perché non sappiamo usare i nostri strumenti. Continuiamo ancora con un po' di musica dopo questo bellissimo set di Robbie Wanker Robbie e dopo un altro bellissimo set che abbiamo sentito di Sbume, un bel mix breakbeat moderna. Continuiamo con un po' di musica breakbeat, ma delle origini.

Thank you.

cortocircuito. We'll be right back. Song that I asked for. If you wanna link up, you can meet me on the dance floor. 50 Cent can't dance like me. Soulja Boy can't dance like me. Michael Jackson can't dance like me. No, so count with me. One glass of champagne for me. Two glass of champagne for you. Three, now do the Rolex feel. Do the Rolex feel. Do the Rolex feel. Do the Rolex feel. Do the Rolex feel. Count with me. One glass of champagne for me. Champagne for you, free. Do the Rolex feel. Do the Rolex feel. Do the Rolex feel. Do the Rolex feel. Do the Rolex feel. Girl, count with me. Do the Rolex feel. One, two, three. I told her to drink up, select to play the song that I asked for. If you wanna link up. Song that I asked for. If you wanna link up, you can meet me on the dance floor. 50 Cent can't dance like me. Soulja Boy can't dance like me. Michael Jackson can't dance like me. No, so count with me. One glass of champagne for me. Two glass.

curioso comunque, come ogni volta che vuoi fare le zarrate, finisce sempre che fai delle figure di merda. Better than yours.

gonna relish the stroll, so she can get a sensual seduction. So I can get a sensual seduction. So we can get a sensual seduction. Sensual seduction. She might be with him, but she's thinking about me, me, me. We don't go to the mall, we don't go out to eat, eat, eat. All that we ever do is play in the sheets, sheets, sheets. Smoke us a cigarette, then go back to sleep, sleep, sleep. Cause we ain't got a sensual seduction. Sensual seduction. Oh. Sensual seduction. Sensual seduction. I'm gonna take my time. She gon' get hers before I'm gonna take it slow. I'm not gonna rush the stroll. If you don't know by now, doggy dog is a freak, freak, free. I keep a bad with me 7 days out the week, week, week. And all that we ever do is play in the sheets, sheets, sheets. Then smoke us a cigarette and go back to sleep, sleep, sleep. Cause we done got a sensual seduction. Sensual seduction. Sensual seduction. Sensual seduction. I was all in the club, having a drink, blowing on the sweet, when I peeped this little freak out. I was all in the bar when Drifter, Shorty Red came on, and she hit the floor now. With a see-through dress, long hair, light brown eyes, looking like Miss Bo P. And a player note, if I take her home with the real big hips, you're so right, I'm gon' be. So I approached the chick with the real pretty face, nice curves on her with a little bitty waist. I whispered in her ear, little mama, what you drink? I know that you a freak, but you know I ain't gon' say shh. See, my game is outrageous. I got her to the crib and exchanged some love faces. But it wasn't no need for me to rush the bus one, cause I wanted her to have an eruption. Sensual seduction. Sensual seduction. Whoa. Sensual seduction. Sensual seduction. Whoa. Sensual seduction. All the time, anytime. Sensual seduction. Buonasera, bentornati a Cortocircuito. Bentornati e ben arrivati alla fine della puntata. Se vi è piaciuta potete andarvela a risentire cliccando su Archive, cercando Radio ZAM. Ci sono tutti i podcast di tutte le splendide puntate di Radio ZAM, di tutte le programmazioni, anche di questa cazzo di puntata qua. Signore e signori, vi saluto, vi invito a seguire la prossima puntata, il prossimo venerdì, alle 7. Buonanotte a tutti.